giorno in cui ti ho incontrata, eterea Beatrice di un poema da favola. Son caduto innamorato, ai che botta, sul selciato per te. Mi sento già l'ormone a mille, il viso da perfetto imbecille. Accesi ho solo due neuroni, spero che siano almeno buoni per te. Guarda, c'è un fiore per te, se me lo chiedi ruberò la luna. Scrivo poesie, canzoni, volumi, commedie apposta per te. Allora dimmi perché tu non mi caghi mai. Io che di solito son sociopatico e cadaverico e del sapone un po' fobico, mi sforzo d'essere brillante, bello, ricco e affascinante per te. Comincio a fare anche cose strane per attirare la tua attenzione. Tipo stordisco i miei vicini urlando in pezzi di bacini per te. Ecco gioielli per te, mia signora, sarò il suo cavaliere. Faccio lavori e favori e spendo denari apposta per te. Vorrei sapere perché tu non mi caghi mai. Guarda, c'è un fiore per te, se me lo chiedi ruberò la luna. Scrivo poesie, canzoni, volumi, commedie apposta per te. Allora dimmi perché tu non mi caghi mai. No, non mi caghi mai. No, non mi caghi mai. No, non mi caghi mai. Non mi caghi mai.